Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi e benvenuti. Prima di andare a sentire i temi del nostro sommario, ringrazio Giorgio Mattei in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Allora, vogliamo i temi del nostro sommario. I problemi di un intestino capriccioso. Musica e alcol, un accordo stonato. Cambia la realtà, cambiando le parole. Clisterium donare, poste a sagnare, quindum purgare. Prendiamo spunto niente meno che da Molière per introdurre la puntata di oggi, in cui vogliamo parlare delle abitudini del nostro intestino, che spesso fa un po' la prima donna, diventa capriccioso. Capisco che l'argomento non è propriamente da salotto, ma meglio affrontarlo, e già che lo facciamo ne approfittiamo per parlare anche di un altro disturbo che alla stipsi è spesso associato, le emorroidi, che sono un altro tabù. Oggi ci faremo come al solito aiutare da tanti esperti. Vi ricordo subito il nostro numero verde 824 0024, i messaggi 349 238 6666. In linea con noi abbiamo il professor Antonio Gasbarrini, associato di medicina interna all'Università Cattolica Sacro Cuore Policlinico Gemelli. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Professore, con lei cercheremo di capire se il nostro intestino non funziona a dovere perché alterazioni gli impediscono di funzionare bene. Beh sì, dobbiamo calcolare questo. L'intestino è una vera e propria macchina da corsa, è un organo lungo circa 8 metri che comincia dalla bocca e finisce a livello dell'ano, è estremamente complesso nella sua funzione. Calcolate che se viene steso completamente a una superficie uguale a circa quella di due campi da tennis, perché tra le sue funzioni principali vi è quello di assorbire e prendere il cibo. Calcolate che nella nostra vita quasi 60 tonnellate di cibo transitano nell'intestino, però il problema è che questo cibo deve essere anche espulso, i residui che non vengono assorbiti e digeriti devono essere espulsi, e pertanto in qualche modo il medico, il gastroenterologo, l'internista deve fare un po' il meccanico di questo organo, che per quanto è complesso e ben strutturato può avere dei problemi. Allora, prendendo spunto proprio dall'esempio del professor Gasbarrini, che si è un po' paragonato al meccanico, perché il gastroenterologo ha la funzione di individuare anomalie di questo motore che è poi il nostro intestino, può anche allora capitare che la macchina non funzioni a dovere perché facciamo il pieno con la benzina sbagliata. La nostra benzina sono gli alimenti che ingeriamo. Invitato a tornare a trovarci il dottor Franco Berrino. Buongiorno dottore. Buongiorno. Direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva all'Istituto Nazionale dei Tumori. Dottor Berrino, oggi allora con lei avremo modo di ritoccare un po' la nostra dieta per trovare quello che piace di più al nostro intestino, o almeno limitare quello che proprio non gli piace. Certamente. Avremo quindi la possibilità di sottoporre le nostre domande e anche di raccontare le nostre abitudini alimentari al dottor Berrino. Ma prima, professor Gasbarrini, vogliamo capire quando possiamo parlare di stitichezza? Beh, allora partiamo dal presupposto che non tutte le persone si liberano nello stesso modo, non tutte vanno al bagno nello stesso modo, quindi diciamo che c'è un margine di cosiddetta variabilità dentro il quale non si può parlare né di diarrea né di stitichezza, perché poi se parliamo di stitichezza ricordiamoci sempre che dall'altro lato della medaglia è la presenza di diarrea. Certo. Diciamo che l'intestino normalmente dovrebbe svuotarsi tutti i giorni, quindi è in quantità adeguata, quindi abbiamo due possibilità. La prima è che la persona si svuota tutti i giorni ma non ha mai la sensazione di liberarsi del tutto, e quindi questa è una prima variante. La seconda invece è che l'intestino non si libera quotidianamente, diciamo che fino ogni 48 ore può essere normale, soprattutto se la persona non ha sintomi. Ci sono persone che si liberano a giorni alterni senza problemi, ma se si supera diciamo ogni 48 ore e soprattutto se non c'è la sensazione di liberarsi in maniera adeguata, si comincia a parlare di stitichezza, quindi della difficoltà di eliminare i residui che sono il prodotto terminale dei cibi che noi abbiamo assunto. Dottor Berrino, abbiamo detto poi è possibile che il nostro intestino non funzioni regolarmente perché la nostra dieta non va bene. Come possiamo accorgerci che la nostra stitichezza è essenzialmente un problema di dieta, di quello che mangiamo? Ma guardi, nella stragrande maggioranza dei casi la stitichezza è un problema di alimentazione, no? Poi ci sono anche delle patologie, ci sono delle malformazioni dell'intestino, che un intestino troppo lungo per esempio, no, che può favorire, anzi che favorisce drammaticamente la stitichezza, no? Ma diciamo Nella nostra esperienza, che è di lavorare modificando con persone volontarie che modificano la dieta allo scopo di modificare l'ambiente interno e prevenire i tumori e altre malattie croniche, no? Abbiamo visto che la frequenza della stitichezza nel volgere di un paio di mesi, ma sì, anche prima spesso, anche poche settimane, la stitichezza scompare. Circa una donna su tre di quelle che hanno lavorato con noi, delle molte centinaia di donne che hanno lavorato con noi in questi progetti di ricerca, soffriva di stitichezza, dover prendere dei purganti, fare dei clisteri, e dopo un mese e mezzo all'incirca, no, di cambiamento alimentare, nessuna più soffriva di stitichezza. Quindi ci siamo veramente convinti che la stitichezza è una sofferenza inutile nelle nostre popolazioni. E il cambiamento di dieta che noi proponevamo era un cambiamento di evitare le cose estreme, evitare i cibi troppo salati, evitare troppi cibi cotti al forno, troppi tipo biscotti, no? Evitare cibi invece troppo dolci, no? Troppo zucchero, troppe farine raffinate, no? E centrare la propria alimentazione su cibi elementari, cibi semplici, no? Cereali non industrialmente raffinati, legumi, verdure, no? Un po' di frutta, un po' di pesce, no? E queste cose qua sono, portando l'alimentazione a questa semplicità originaria dell'alimentazione dell'uomo, no? L'intestino si rimette tranquillamente a funzionare bene. Il cambiamento però deve essere graduale, perché se uno che normalmente mangia solo carne, formaggi, improvvisamente si mette a mangiare pane integrale, fagioli, ah, certo, c'è qualcosa che c'è un'immediata protesta dell'intestino. Quindi un cambiamento graduale. E noi deve essere graduale, e nel volgere di qualche settimana si risolve la stitichezza, ed è una cosa fantastica, nel senso che la gente è più felice. Parleremo anche di emoroidi nel corso di questa trasmissione, per aggiornarvi sulle nuove tecniche di intervento, ma soprattutto per provare a sconfiggere quella brutta, ma anche, se assolutamente comprensibile, abitudine di farsi autodiagnosi. Professor Gasbarrini, mi dica lei, ma brevemente, perché affronteremo poi in modo più approfondito il tema nella seconda metà della trasmissione, molto spesso chi soffre di stipsi si trova poi ad avere attacchi di emoroidi. È una combinazione sfortunata oppure quasi inevitabile? Beh, in parte quasi inevitabile. Calcoli che le varici emoroidarie sono delle varici venose assolutamente fondamentali per il buon funzionamento della parte terminale dell'intestino, quindi tutti le abbiamo. Quando uno dice ho le emorroidi, ovviamente è un errore, tutti abbiamo le emorroidi. E meno male che ci sono. Per fortuna, anzi, sarebbe un grosso problema se andassero via, perché vuol dire che non arriverebbe, o meglio, il sangue venoso non riuscirebbe ad andare via bene dall'intestino. Però il problema qual è? Come nelle donne, che spesso hanno le vene varicose delle gambe, con facile, diciamo, intuizione, è facile pensare che anche a livello della parte terminale dell'intestino queste varici, queste vene emorroidarie possono dilatarsi e quindi diventare delle vere e proprie varici. In alcuni casi, ed è ovvio che chi soffre di stitichezza e sta molto spesso molto tempo in bagno e quindi spesso spinge, quindi ha una pulsione, queste varici possono dare dei problemi, e quindi a quel punto si dice o le emorroidi o le varici emorroidarie. Qui bisogna stare molto attenti, credo che trasmissioni come queste sono molto importanti, perché possono anche però essere un indizio di altre patologie, per cui è fondamentale, torniamo al discorso del meccanico, che il gastroenterologo identifichi se sono emorroidi semplici o se sono espressione di qualcos'altro. Quindi chiamateci se volete venire a capo della vostra stitichezza, preparatevi a dirvi anche come strutturate la vostra dieta. Il dottor Berrino è a vostra disposizione per darvi dei consigli, il professor Gasbarrini ci aiuterà invece a capire se il nostro intestino non funziona bene perché ha qualche problema suo, qualche alterazione, proprio farà il meccanico. Voi interverrete naturalmente chiamando il nostro numero verde 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Alcol e musica ad alto volume, un accordo davvero stonato e molto pericoloso. Ne parliamo oggi con la dottoressa Erika Sibillo. Buongiorno dottoressa, bentornata. Grazie, buongiorno a tutti voi. Medico esperta di musicoterapia. Dottoressa Sibillo, già sapevamo, ne abbiamo parlato anche più volte con diversi esperti, che il genere musicale che noi sentiamo, ci fanno ascoltare in un bar, in un locale, può influenzare la scelta del nostro drink. ma non era stato mai preso in considerazione, direi, un dettaglio fondamentale, cioè a quale volume questa musica viene fatta ascoltare, perché anche questo può fare la differenza. Sì, una ricerca davvero interessante, perché questi ricercatori sono partiti ad osservare per 3 sabati sera consecutivi, quindi diciamo la giornata clou dove la gente si ritrova volentieri a scambiare 2 chiacchiere in un bar, in un locale, e hanno analizzato 40 bevitori di birra, tutti uomini di età compresa tra i 18 e i 25 anni di età. Hanno preso 2 bar molto frequentati tra i giovani, situati appunto in Francia. Chiaramente nessuno di questi signori sapeva di essere osservato. Gli studiosi hanno alternativamente aumentato e diminuito il volume della musica che veniva diffusa nel locale e hanno registrato quanto e quanto velocemente i clienti sorseggiavano la loro bevanda. E i risultati sono estremamente interessanti, perché la musica messa ad un volume eccessivo, ad alto volume, ha provocato un aumento del numero dei drink consumati, perché il tempo per sorseggiarsi questa bevanda sotto l'effetto di una musica che doveva essere di sottofondo ma messa ad alto volume si riduce di 3 minuti circa. Cosa vuol dire? Che noi beviamo di più ma molto più velocemente, e molto più velocemente. Quindi questo consumo di bevande alcoliche, che è in relazione agli alti volumi sonori, dipende da 2 sostanziali fattori. Uno, l'alto volume della musica potrebbe distrarre quella sorta di orologio che noi abbiamo all'interno del nostro corpo, quindi inducendolo a girare più velocemente. Ma l'altra ipotesi, che sicuramente possiamo verificare tutti noi, è questo: che quando c'è una musica a tutto volume noi non riusciamo a scambiare neanche 2 parole con il nostro vicino, con il nostro amico, con la quindi dottoressa Sibillo, parliamo di meno e beviamo di più. Esattamente questo, e io sono molto contenta e la ringrazio molto per la possibilità che ha dato anche di analizzare questo grave problema, perché ormai se ne parla dappertutto, anche sotto l'aspetto di un qualcosa che appare di sottofondo, cioè la musica, l'abbiamo detto, fa bene, è energizzante, però deve essere sempre presa alle giuste dosi, e se noi conosciamo che una musica messa in un locale ad alto volume può indurci passivamente a consumare più alcol, beh, sta a noi decidere se frequentare o meno quella situazione. Dottoressa Sibillo, grazie per essere stata con noi, le auguro una buona giornata e un buon ascolto di musica, come sempre. Grazie anche a tutti voi. Buona giornata. Pronto soccorso. Intestino pigro, perché il nostro intestino non si mette in moto? Allora oggi proviamo a dargli una mossa correggendo la dieta e andando a individuare le cause del suo cattivo funzionamento. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde. Professor Gasbarrini, abbiamo visto col dottor Berrino che modificando la dieta, ma in modo graduale, si viene a capo della stitichezza, però a volte questo nostro intestino ha delle alterazioni che non gli permettono di mettersi in moto correttamente. Quali possono essere? Quali sono i sintomi che mi devono far capire che il mio intestino ha qualcosa che non va? Dovete calcolare che l'intestino, la modalità in cui l'intestino si svuota, può essere una cosa acuta o un problema cronico. Cioè, cosa voglio dire? Se noi siamo sempre andati al bagno regolarmente e di colpo diventiamo stitici, è ovvio che la cosa deve preoccuparci, perché potrebbe essere successo qualcosa che ha determinato un rallentamento dello svuotamento dell'intestino. Se invece la problematica dura da molti anni e la cosiddetta stipsi cronica, è ovvio che possiamo stare un pochino più sereni. Però è fondamentale che in entrambe le situazioni il paziente si accerti con un gastroenterologo, con un internista, che non vi siano delle problematiche. Quali possono essere? Possono essere problematiche anche maggiori, è ovvio che anche la neoplasia dell'intestino può determinare stitichezza, però diciamo che nelle forme croniche spesso possono esserci delle problematiche, ad esempio di tipo anatomico. Voi sapete che l'intestino termina col colon, che è un organo generalmente lungo 1 metro, 1,20 metri, però sono molto comuni delle varianti anatomiche di colon, i cosiddetti dolico colon, cioè colon molto lunghi, arzigogolati. Dato che il colon è l'organo che assorbe l'acqua, se il colon è congenitamente molto lungo, questo può far sì che il cibo alla fine del suo processo digestivo stia molto tempo nell'intestino, venga molto disidratato, e questo esita invariabilmente in una stitichezza, per cui la prima cosa è accertarsi col proprio medico che gli organi siano ben fatti. In presenza di un dolico colon un po' di stipsi sarà assolutamente inevitabile. Esistono inoltre ovviamente anche delle cose banali. Una persona che non ha mai avuto stitichezza, ha una problematica cardiologica o respiratoria, comincia a fare farmaci, bene, stiamo attenti perché molti farmaci possono determinare stitichezza. Certo. Una persona che non fa esercizio fisico, voi sapete che tra le varie diciamo strutture che fanno muovere il collo vi sono anche i muscoli addominali e noi sappiamo ad esempio il nostro professor Berino dopo ce lo dirà che oltre alla dieta è importante anche stare in buona salute fisica e fare anche esercizio, quindi persone assolutamente pigre, allettate possono avere dei problemi, quindi io credo che la cosa fondamentale del medico è escludere patologie maggiori, vedere se vi sono delle problematiche anatomiche che possono determinare stitichezza e poi dare tutti quei consigli dietetici ma anche proprio di abitudini di vita generali che possono risolvere il problema. Dottor Berrino, veniamo a lei. Potremmo iniziare da oggi un programma, una dieta amica più amica del nostro intestino e quindi provare un po' a risistemare la dieta dei tanti ascoltatori che mi scrivono: mangio frutta, mangio verdura, bevo molta acqua, ma sono stitico cronico. Che cosa si può fare? Dobbiamo iniziare gradualmente, ma, dottor Berrino? Allora, le fibre, gli alimenti ricchi di fibre sono effettivamente una cosa importante, però bisogna avere anche lì un po' di attenzione, nel senso che gli alimenti ricchi di fibre devono essere masticati molto molto bene. Noi raccomandiamo in particolare l'uso dei cereali integrali, sì, sia sotto forma di farine integrali, sotto forma di pane, ma soprattutto sotto forma di chicchi di cereali integrali, cioè il riso integrale, l'orzo, il farro, il miglio e così via. E una cosa importantissima per il buon funzionamento dell'intestino è la masticazione. L'intestino veramente ringrazia quando mastichiamo tanto. Infatti si dice che la digestione inizia in bocca. Esattamente. Questo è uno dei difetti principali delle nostre popolazioni. Mangiamo troppo e mangiamo troppo in fretta, no? E questa roba qua, diciamo, è intuitivo che possa intasare. La nostra raccomandazione è di masticare, dedicare il tempo a masticare. Noi in linea abbiamo già dei nostri ascoltatori, cerchiamo di capire se masticano. Mariangela dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi richiamato. Grazie a lei. Il dottor Berrino diceva bisogna masticare bene. Lei mastica bene, Mariangela? Diciamo che ultimamente presto più attenzione, sì, proprio alla masticazione. Cerco di masticare meglio, più lentamente. Bene. Il mio problema è invece l'addome sempre molto molto gonfio. La frutta, se mangio la frutta si gonfia di più, se mangio la verdura si gonfia di più. Cioè non so più che cosa fare. Dottor Berrino, cosa allora, può fare Mariangela? Quando ci sono questi casi c'è probabilmente anche uno stato infiammatorio dell'intestino. È molto noto che la frutta fa gonfiare la pancia. Non è l'alimento migliore la frutta, anche come fornitore di fibre, no? L'alimento migliore per guarire queste condizioni infiammatorie dell'intestino che sono associate a gonfiori di pancia, no? È la crema di riso integrale. Se lei compra il riso integrale, lo fa cuocere a lungo, prende una parte di riso, 7-8 parti di acqua e lo fa cuocere anche 3 ore, poi lo passa al suo passino o al suo setaccio, non sì, il frullatore, al setaccio, per non avere troppe fibre, no? E per alcuni giorni, no, questa rimane la base della sua alimentazione, no? Anche se una crema, questa crema deve essere masticata, cioè deve essere insalivata bene in bocca, girata in bocca a lungo prima di mandarla giù, no? Questo aiuta moltissimo a togliere l'infiammazione dell'intestino, a togliere questi gonfiori, che è un problema estremamente comune di avere la pancia gonfia. Sì. E che può essere associato alla stitichezza o no, anche ci sono persone che non sono per niente stitiche. Se no, in altri casi invece due problemi arrivano contemporaneamente. Andiamo a Pavia, ci chiama Vincenzo. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno. Vincenzo, però, rapidamente la domanda, sì, perché poi abbiamo i mercati e so che il dottor Berrino non può rimanere con noi. Ma io volevo solamente dire questo, io da anni soffro di stipsi, sì, e comunque ho un'alimentazione di questo tipo, mattino colazione con cereali, sì, poi mangio molta verdura, molti minestroni, sì, quindi molta frutta, poca carne, sì, eppure ho una quindi stipsi cronica da anni e anni e non riesco a risolvere. Dottor Berrino, questo è un caso che lei passerebbe al professor Gasbarrini oppure proverebbe? Vale la pena di esaminare se non c'è un difetto anatomico, un difetto meccanico nel suo intestino, no? Però a maggior ragione, no? se c'è un difetto meccanico si possono fare alcune cose. I cereali a colazione, stia attento che siano cereali senza zucchero, perché lo zucchero è veramente un nemico dell'intestino. E che siano super masticati. Sì. E poi in genere i cereali a colazione fanno bene, no? Una cosa che lei potrebbe provare, un piccolo rimedio che noi suggeriamo, no? Per chi non ce la fa a risolvere il problema, in particolare se lei soffre di feci dure, no? Se sono difficili da evacuare perché sono dure, no? Allora è bene lubrificare la parete dell'intestino, lubrificare l'intestino, e lo facciamo con un dolcetto, no? Sì. Facciamo cuocere, sciogliamo un cucchiaino di agar agar in una tazza di succo di mela senza zucchero, no? Lo portiamo a ebollizione e poi quando questo diventa tiepido, no? Si beve questa bevanda deliziosa, tiepida. Se lei la lascia raffreddare diventa una gelatina, è una cosa che si usa per fare i dolci, per fare sì, delle torte. Al posto, no? Della colla di pesce. Al posto della colla di pesce, esattamente. No? E questa è una cosa che lubrifica molto l'intestino, e che quando ci sono delle forti tensioni, no? Un intestino contratto, no? Delle feci dure, no? Aiuta ad evacuarle. Ci faccio una prova, ma vada a consultare un gastroenterologo per vedere se non c'è un difetto. Un difetto dell'intestino. Siamo tornati insieme, oggi parliamo del nostro intestino, parliamo in modo particolare di stitichezza, stipsi come la chiamano i medici. In linea con noi abbiamo il professor Antonio Gasbarrini, ci raggiungerà per parlare di un disturbo che spesso la stitichezza è associato e correlato, il dottor Angelo Stuto, che è presidente eletto della Società Italiana Unitaria di Colonproctologia e responsabile dell'unità operativa di colonproctologia, e ci aggiornerà anche sulle novità riguardo gli interventi per le emorroidi. Professor Gasbarrini, ci scrive Carlina da Roma e vuole sapere se delle alterazioni del funzionamento della tiroide possono giustificare una stitichezza cronica. Sappiamo che noi donne soffriamo più degli uomini di stipsi. Professore, è possibile? Assolutamente sì, è una bella domanda. Fa proprio parte di quel concetto che vi dicevo, dell'inquadramento della stipsi all'interno del nostro organismo. Ora, molto spesso si compie l'errore di andare subito dai super specialisti. La funzione dell'intestino è regolata da ormoni e non c'è dubbio che gli ormoni tiroidei sono in parte responsabili del funzionamento dell'intestino. Sappiamo ad esempio che durante una crisi tireotossica, cioè di aumentata funzione della tiroide, si può avere diarrea. Nello stesso modo, se la tiroide funziona poco, si può avere una stitichezza. Quindi non c'è dubbio che gli ormoni tiroidei vanno misurati. Ma ad esempio un'altra possibilità, le persone con morbo di Parkinson possono avere un'alterazione della motilità intestinale, pertanto diarrea. La presenza di diverticoli può determinare un'alterazione della motilità del colon e pertanto diarrea. Per cui non c'è dubbio che prima di parlare di stipsi idiopatica o cronica bisogna escludere cause intestinali o sistemiche che la possono giustificare. E naturalmente correggere anche la dieta, quello fa sempre bene. Ma professor Gasbarrini, c'è chi preferisce prendere delle scorciatoie e usa i lassativi? Qua si apre un finestrone, ecco, perché di solito si va in farmacia o il lassativo magari ce lo consiglia l'amica, e c'è un rischio ad usare i lassativi senza che il medico ce li consigli? Assolutamente sì, voi dovete calcolare che un lassativo può essere anche la verdura o la frutta, per cui partiamo dal presupposto che nella nostra alimentazione vi sono alimenti ricchi di scorie, e cioè di sostanze, soprattutto polisaccaridi, che non vengono assorbiti, che funzionano da lassativi perché facilitano l'evacuazione. Quindi sì, il primo vero lassativo, come avete detto giustamente finora, è una dieta corretta. E attenzione, la dieta corretta non è solo di alimenti, ma deve essere anche ricca di liquidi, cioè ci sono persone che non bevono, e dato che le feci sono in parte anche formate da acqua, ci vuole una buona idratazione. Quindi almeno 2 litri al giorno, se uno fa attività sportiva, aumentare l'apporto di sostanze liquide. Sì. Poi abbiamo detto l'attività fisica, perché fa una sorta di massaggio, no, al nostro intestino. Addominali, retti addominali. Allora, un altro concetto, sui lassativi bisogna stare molto attenti. I lassativi si dividono in lassativi, diciamo, non tossici per la parete e i lassativi tossici o infiammatori. Cioè ci sono sostanze che proprio determinano un'irritazione sulla parete dell'intestino e questa irritazione determina un aumento della motilità e una liberazione. Questi lassativi nel lungo termine sono dannosi per il colon. Si realizza spesso, chi fa colonscopia, chi ha fatto colonscopia, a volte può essere sentito dire dal medico, c'è una melanosi corica. Cosa vuol dire? Che il colon, che normalmente è rosa, diventa nerastro proprio perché un uso esagerato di lassativi tossici ne altera proprio la superficie, e voi ben capite che questa non è una cosa normale. Quindi bisogna preferire i lassativi formanti massa. Tra questi, i classici che si usano, sono la base di tutte, diciamo, le terapie per la stipsi, sono le fibre, quindi grande uso di fibre, oltre che nella dieta, a volte anche dall'esterno. Queste fibre fanno massa e quindi i lassativi tossici devono essere usati molto raramente, in modo assolutamente sporadico. Andiamo rapidamente ai nostri ascoltatori, andiamo a Roma, ci chiama Piero, 824 0024, perché stiamo per introdurre la seconda parte della trasmissione in cui vogliamo parlare di emoroidi. No all'autodiagnosi, ma intanto sentiamo Piero. Buongiorno Piero. Buongiorno. Dunque, io ho fatto una colonoscopia e mi è stata diagnosticata dolicocolia e colon convoluto. Bevo tanta acqua, frutta, verdura, latte, eccetera eccetera, però ho questo problema della stipsi. La cosa incredibile è che io ho 66 anni, fino a 15 anni fa, 20 anni fa non c'avevo nessun problema di nessuna natura. Vero è che bevevo, diciamo, intorno ai 2 litri di latte al giorno. Bene, e volevo sapere da che cosa poteva dipendere questa. Mi è stato detto che questa colon convoluto può portare appunto alla secchezza delle feci, come diceva prima il professore. Però vorrei capire come mai? A una certa età non ho mai avuto niente. E improvvisamente, attualmente mi hanno dato o il Metamucil, che sono delle mucillagini, o il Movicol, non so se si può dire. E poi tanto ormai l'abbiamo detto, ma soprattutto detto, il professor Gasbarrini... Voglio sapere anche se come dolcificante è meglio usare il miele allora invece che il latte, perché tante volte io uso invece dello zucchero. Incrementando magari la quantità di latte, adesso prendo un mezzo litro al giorno, insomma. Sì, allora, professor Gasbarrini, un aiuto per Piero, tante domande, ma il nostro tempo a disposizione vola perché abbiamo altri ascoltatori, per cui... Allora, molto rapidamente, Nicoletta, Piero ha detto una cosa molto interessante. Io ce l'avevo già, ci sono nato con questo colon lungo, perché ora comincio ad avere un problema semplice, perché l'organismo invecchia. Quindi se fino a un certo punto la motilità intestinale era sufficiente a far evacuare normalmente, col tempo un po' di sclerosi delle arterie che portano sangue al colon, forse un pochino di aumento di peso, le modificazioni della dieta fanno sì che è diventato sintomatico. Quello che è molto interessante è il fatto del latte. Noi sappiamo che nella popolazione italiana quasi il 30-40% delle persone è intollerante o malassorbente al latte. Orbene, queste persone utilizzano il latte per avere un pochino di diarrea. Quando uno ha un'intolleranza al latte ha diarrea, per cui molti utilizzano ad esempio il cappuccino al mattino per avere diarrea come sintomo, che nello stitico determina normalizzazione dell'alvo. Quindi è ovvio che la cosa ideale, come lui ha fatto, è aumentare l'uso delle fibre e bere molto. A volte uno può usare questi trucchetti, una minima intolleranza al lattosio può determinare un aumento della frequenza dell'alvo, però l'ideale è escludere altre patologie. Però l'uso di lassativi che lui ha detto, al di là dei nomi commerciali, sono lassativi corretti, sono lassativi fondamentalmente che danno fibre e formano massa. Ci ha raggiunto il dottor Stuto. Dottore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Allora, ho subito un messaggio con lei, glielo leggo, ma poi andiamo a sentire il traffico. Ogni tanto, dopo l'evacuazione, del sanguinamento delle emoroidi, che però non mi provocano dolore. Cosa mi consigliate? Consigli per Paolo da parte del dottor Stuto e anche a tutte le persone che in qualche modo si ritrovano nella condizione di Paolo. Dottor Stuto, ha pensato ad una risposta per il nostro amico Paolo? Assolutamente sì. Prima di tutto mi sento di poterlo tranquillizzare dicendo che un sanguinamento durante o dopo la defecazione senza dolore è molto probabile possa derivare da un problema emorroidario. Difatti, al contrario di quello che si pensa, il dolore non è il sintomo più frequente dei problemi emorroidari. Invece il sintomo più frequente è proprio il sanguinamento in assenza di dolore oppure il prolasso, la fuoriuscita delle emorroidi. Comunque è ovvio che il miglior consiglio che io possa dare a questo ascoltatore è quello di fare o di consultare uno specialista proctologo o coloproctologo, perché è solo così che si potrà arrivare a una diagnosi precisa. Andiamo ad Amelia, che ci chiama dalla provincia di Lucca, 824-0024. Amelia, benvenuta e buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, signora, io sono mio marito che ha 65 anni. Sì. E 25 anni fa fu operato di emorroidi. Ora li soffrì talmente tanto, ma tantissimo, che ora sono 6-7 anni che ogni volta che va a bagno c'è grosso problema che venga fuori. Sì. E allora sono già 7 anni che a volte ha fatto anche tanto sangue, però non si decide perché ha tanta paura. Volevo sapere cosa dire a questo marito. Ha avuto questo intervento, capito? Allora, gli anni sono passati e ma ce lo dirà il dottor Stuto, nel tempo avete avuto dei miglioramenti anche negli gli interventi sono meno dolorosi, dottor Stuto, ma lei se la sente di rassicurare Amelia oppure... Ma io, oltre che rassicurarla, invito il marito della signora veramente a recarsi da uno dei centri specialistici. Oggigiorno l'intervento per i problemi emorroidali è l'intervento più moderno, è molto diverso da quello che ha subito. No, quasi una passeggiata, dottor Stuto? Le ripeto, veramente, una gita in montagna. Una gita in montagna, non voglio essere esagerato, ma io ho l'esperienza diretta di alcuni miei pazienti che avevano subito, come il marito dell'ascoltatrice, un intervento con tecnica classica negli anni or sono e che io ho rioperato, e veramente loro definiscono il post-operatorio di questo nuovo intervento, tra l'altro ideato da un collega italiano, veramente una passeggiata o con un dolore, un fastidio nettamente inferiore rispetto agli interventi classici. Ci scrive un'ascoltatrice, Michele da Jesolo, ha l'abitudine di stare seduta a lungo sul water durante l'evacuazione. Mi è stato detto che ciò può portare dei problemi di emorroidi, è vero, dottor Stuto? Sì, può essere la spinta eccessiva durante la defecazione o lo stare per molto tempo seduta nella posizione accovacciata. Può, ma più che portare problemi di emorroidi, forse rendere più evidenti dei problemi di prolasso che sono già presenti. Bisognerebbe chiedersi, nel caso di questa signora, se forse non sia una stipsi, una difficoltà alla defecazione la causa principale. In ogni caso non è certo stare qualche minuto in più che possa peggiorare una situazione che magari è già presente. Professor Gasbarini, però le emorroidi che sanguinano e prolassano sono dolorose, ma non rappresentano di per sé un problema di salute, quindi è corretto pensare che la decisione di intervenire non spetti al medico più che al paziente. Professor Gasbarini, lei che dice? Ma è un buon punto, però bisogna stare attenti. Noi molto spesso vediamo delle persone che hanno un'anemia cronica da carenza di ferro e non troviamo altre cause. Molto spesso un sanguinamento continuo, anche se non doloroso, può determinare un'anemia. Inoltre non dimentichiamo che, come dicevamo prima, le emorroidi possono essere segno di altra malattia, ad esempio la cirrosi epatica, che è una malattia che non è così rara in Italia, a volte può avere emorroidi perché questi pazienti hanno delle problematiche sul flusso vascolare, e a quel punto quindi le emorroidi possono essere anche un segno per cercare altre patologie. Io vorrei chiedere al dottor Stuto di farci un po' una panoramica delle possibilità di intervento, no? Perché ce ne sono diverse, sentiamo parlare di legatura elastica, di iniezioni sclerosanti, abbiamo poi la tecnica tradizionale, quella che invece è stata ideata da un suo collega, che viene chiamata come tecnica longo. Ci sono evidentemente la scelta dell'intervento dipende da che cosa, dottor Stuto? Dalla gravità del problema, dall'abilità del medico? Certo, la scelta della terapia da adottare dipende sicuramente dalla gravità del problema, sicuramente dalla causa del problema e sicuramente anche dall'esperienza del chirurgo nell'affrontare determinati tipi di terapia. Tra quelle che lei ha citato dividerei sicuramente due gruppi principali. Uno è quello delle, possiamo chiamarle, terapie ambulatoriali o, usando un termine che magari non è molto carino però abbastanza chiaro, parachirurgiche, perché in effetti chirurgiche vere e proprie non sono, e queste sono la legatura elastica, che sicuramente è la più usata. oppure l'iniezione sclerosante, la crioterapia, che mi permetto di dire che sono via via in abbandono o sì, meno praticate. Queste sono terapie ambulatoriali, non necessita ricovero, possono essere usate negli stadi assolutamente iniziali, ma sono più che altro dei sintomatici, migliorano il problema nel breve tempo. Sono gravate sicuramente da un tasso di recidiva molto alto, quindi possiamo dire che non sono, nella maggior parte dei casi, terapie risolutive. Sì, sono dolorose o no? No, perché già che non risolve ancora essere dolorosa e il danno la beffa, no? Allora, no, non devono essere dolorose quando praticate nel modo corretto. Sì. Proprio perché sono pratiche ambulatoriali, non richiedono di anestesia e non devono essere dolorose. Dico questo, non devono, perché nel caso in cui vi sia un dolore dopo, per esempio, una legatura elastica, vuol dire che c'è stata o una piccola complicanza o forse che l'elastico non è stato posizionato nella zona più idonea. Senta, invece mi fa rapidamente una distinzione tra la tecnica tradizionale e la tecnica longo? Sono due alternative, una vale l'altra o perché sono diverse? No, sono molto diverse e forse la telefonata o il messaggio dell'ascoltatrice di prima è molto esemplificativo. La tecnica tradizionale va a togliere proprio il tessuto emorroidale e quindi chirurgicamente si va ad aggredire il canale anale e quindi creando un'alterazione anatomica che io ritengo importante proprio a livello del canale anale, del retto inferiore, laddove sono le emorroidi interne. Invece la tecnica di prolassectomia, come viene anche chiamata, o di anopessi o secondo longo, come lei giustamente ha detto, non lavora sul canale anale, bensì nel retto inferiore, in una zona molto poco dolorosa, non toglie le emorroidi, ma le rimette, le riposiziona nella loro sede consona propria, e in questo modo sistemando la sintomatologia, sistemando il prolasso, togliendo al paziente tutti quei disturbi che noi conosciamo, ma soprattutto i pazienti conoscono, per chi soffre di patologia emorroidale. Dottor Sutto, io la ringrazio, abbiamo così tracciato una panoramica degli interventi a disposizione e l'importante è, però, in presenza di un problema, non fatevi autodiagnosi, rivolgetevi agli specialisti. Ringrazio il professor Gasbarrini, ringrazio il dottor Sutto. Grazie a voi. Grazie professore. Ricordo che da oggi a venerdì 14 in 106 centri visite per stipsi ed emorroidi. Abbiamo un numero verde 800 126 731, potete trovarlo anche sull'home page sulla pagina di Essere Benessere. Adesso un piccolo consiglio di chiusura prima di salutarvi: non pensate troppo al futuro, vivete il qui e l'ora. Un breve estratto dal libro Il grano e la zizzania di Matteo Rampini, Ponte alle Grazie editore, e con questo vi saluto e vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Il futuro, da un certo punto di vista, è la radice di tutte le inquietudini. Si teme solo ciò che non è ancora accaduto. Il timore esiste solo in funzione di qualcosa che adesso non c'è. Questo atteggiamento nei confronti del futuro deriva dalla consapevolezza di quale sarà alla lunga, inevitabilmente, il nostro destino. D'altro canto, anche la speranza trova la sua ragion d'essere nel futuro, nel fatto che esso è sempre meno vincolato di quanto possiamo pensare. Ma pochi ricordano che l'atteggiamento nei confronti del futuro condiziona il presente. Se mi aspetto qualcosa, faccio adesso qualcosa. A chi vive il futuro con timore, possiamo dire: costruiscitene uno alternativo oggi.